Contro la noia, contro la paura, ascoltiamo Due di Denari con i due antivirus Meassa e Larciani. Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Buongiorno Deborah. Come siamo romantici stamattina. Sì, mi sono un po' sorpreso perché non capisco questo avvio così soffuso con Audrey Hepburn che sussurra questa Moon River in sottofondo. Eh sì. Come mai? Eh sì. Che cosa ti ha spinto a chiedere all'ottimo Marco Lombardo questa così. Scelta musicale? Ma allora così mi sono voluta un po' dedicare a questa scelta musicale perché vorrei che la ascoltassero i signori di LVMH, Elve Mache, il colosso francese, ma oserei dire mondiale della moda e non solo, perché sai che avevano intenzione di acquistare Tiffany. Eh sì, il grande l'avevamo anche detto qui a Due di Denari, me ne ricordo. Sì, esatto, e però insomma poi ci si è messo di mezzo il coronavirus e pare che l'operazione possa saltare. Ma per il coronavirus? Tiffany, ma per il coronavirus, sì, perché ovviamente i consumi in senso generale sono un po' a picco in questo periodo e quindi i signori di LVMH dicono sì, noi ti compriamo lo stesso, però ci devi fare lo sconto sul prezzo. E tant'è vero che in borsa poi si è sentita questa situazione perché Tiffany sta abbastanza precipitando come quotazioni. Ed è un peccato perché tra l'altro loro in questo periodo stanno anche facendo la mega galattica ristrutturazione del negozio sulla Quinta Strada, e quindi non vorrei mai che saltasse questa ristrutturazione del flagship store molto famoso appunto proprio sulla Quinta. Film insomma che dove quello davanti alle vetrine, esatto. Dove davanti alle vetrine si va a fare colazione, insomma nel film vanno si a va fare colazione. Colazione da Tiffany, esatto, però adesso c'è questo negozio appunto chiuso sulla Quinta e molti erano preoccupati di questo fatto perché pensavano che fosse a causa dei disordini interni che stanno colpendo anche la città di New York. No, in realtà c'è una ristrutturazione importante in corso che terminerà verso la fine del 2021 e fino a quel momento per chi volesse comunque visitare e acquistare qualche gioiello di Tiffany può andare sull'altro negozio che è al numero 6 della 57esima East. Non so quanto queste informazioni possono interessare i nostri ascoltatori che non possono viaggiare in questo periodo, quindi molto pochi andranno a New York, ma nel caso in cui succedesse, Ce lo segniamo perché incombe il tuo compleanno di qui a pochi giorni, adesso me lo scrivo, certo purtroppo sì, certo, guarda, come sai vedere. Le limitazioni agli spostamenti mi condizionano, non posso recarmi subito da Tiffany nel negozio aperto, non in quello in ristrutturazione. Ti posso assicurare che c'è un online che funziona benissimo, ci sono dei punti vendita anche a Milano. E sì. Non so se queste informazioni ti possono essere utili. Dotato di mascherina puoi recarti a dare un'occhiata, Adesso vediamo, perché prima vorrei capire come vanno gli investimenti. Magari oggi, essendo giovedì, mi consulto un attimo con il nostro esperto, come sempre, di valore mondiale, che oggi sarà Manuel Pozzi, direttore investimenti di M&G Investment. Così capisco bene quali sono le prospettive dei mercati, dei risparmi, e magari da lì poi decido come muovermi per Bravo. Il tuo genetliaco. Sì, certo. Ma è interessante questa cosa che dici, perché in realtà, ecco, se LVMH, Elve Mache, non vuole portare avanti l'impresa di acquisire Tiffany, in realtà poi ci sono tanti altri settori che sono invece in fermento. Tu sai che in Italia in quest'ultimo periodo abbiamo parlato di molto movimento nel settore bancario e finanziario, c'è Intesa che va avanti con UBI, c'è Leonardo Del Vecchio che vuole salire in Mediobanca. Adesso magari sembrano temi un po' distanti dai nostri ascoltatori, no? Come temi di risparmio. Ma in realtà denotano un po' di fermento che comunque fa bene di questi tempi, visto che i mercati ci hanno preoccupato un po' tra marzo ed aprile, adesso invece stanno segnando una ripresa molto intensa, molto interessante, e quindi direi che sarà il caso anche parlare un po' di queste operazioni, se fanno bene o no, anche anche a noi come risparmiatori. Che ne pensi? Lo faremo molto volentieri. Se volete suggerirci, presentarci testimonianze, casi, domande, i numeri sono quelli abituali: 800 24 00 24 per il numero verde, intervenire in diretta. Questo numero, essendo giovedì, è importante perché sarà anche il numero per le risposte al nostro domandone. E poi c'è sempre il numero per messaggi SMS o messaggi WhatsApp, quindi anche messaggi vocali. Questo numero è 349-238-6666. Vi leggiamo e vi seguiamo in diretta. Grazie per quanti ci scrivono e anche coloro che non ci scrivono ma ci ascoltano. Speriamo con piacere. Cara Deborah, io però ho un po' di notizie che con il tuo permesso... Ce l'hai? Sì, sì, con il tuo permesso, il permesso del vigile Peter Bescapé di là dal vetro, che mi guarda... Ma con sguardo truce, mi pare di capire, non so su cosa non è d'accordo. Stamattina? È un po' come truce. Mai? E non successo? Lo so, sarà impermalito per qualcosa. E alle sue spalle scorgo la sagoma poco permeabile di Elisabetta Fusconi. Poco permeabile perché, bella, come sai, è ai confini con la Svizzera, paese della nostra Baba Fusconi, sì. E sono, ahimè, per noi italiani ancora chiusi. E quindi in questo modo la nostra Baba tiene un pochino le distanze, ecco, da noi che non svizzeri non siamo. Però dice che loro svizzeri possono venire in Italia, basta che non vengano a fare la spesa. Non ho capito perché questa limitazione, vero, ma sono andato anche a verificare sui siti e effettivamente è così. Possono venire al ristorante, far visita ai parenti, seconde case, turismo, esatto. Però ma a non fare possono la spesa, fare spostamenti, esatto, per andare al centro commerciale, diciamo a ridosso dei confini, né per fare pieno di benzina o altro. Non so bene con i congiunti come si possano comportare, ma credo che debbano stare attenti anche sulla tipologia di congiunto che scelgono. Mi raccomando, Baba, non rientrare al tuo paese natio con cose comprate al supermercato italiano, perché non vorrei che tu rischiassi una multa. Va bene, tutto ciò premesso, Deborah, abbiamo annunciato il tema del giorno, che è investire informati, abbiamo ricordato i numeri di telefono, abbiamo annunciato anche l'ospite, abbiamo consigliato anche un regalo se qualche ascoltatore, magari dagli Stati Uniti, da New York, volesse comprarti e spedirti un regalo da Tiffany. Può Io farlo non mi sicuramente. Offendo. E non allora mi offendo. A questo punto abbiamo fatto tutto, andiamo con la sigla del giornale radio del risparmio. Con Mazza e Rosciani tenete cari i vostri grani. Dobbiamo cominciare con un tuo grande classico, caro Mauro, i tributi locali. Credo anche che tu te ne sia occupato di recente, in mia assenza avevi deciso proprio di affrontare questo argomento, le imposte sulla casa, che erano state peraltro oggetto di una bella operazione di restyling, di semplificazione in dicembre, ma che adesso rischia di andarmi in fumo in qualche maniera, almeno in termini di conseguenze ed effetti positivi per i contribuenti. Allora, qui c'è un pochino di così confusione, ecco, mettiamola in questo modo. Ma strano, non me, allora, lo sarei mai aspettato. Cerchiamo di porre qualche punto fermo. Il primo punto fermo lo poniamo in edicola, perché oggi con il Sole 24 Ore, all'interno del Sole 24 Ore ci sono 4 pagine dedicate all'acconto IMU. Lo dico anche a beneficio di tutti coloro che ci hanno scritto in questi giorni dicendo: ma non parlate dell'acconto IMU. Sì, l'acconto IMU, appunto, ne parla oggi il Sole 24 Ore, ne abbiamo parlato il 26 maggio, trovate la puntata, infatti, sul nostro sito, sul sito di Radio 24, nella sezione programmi ci sono, cioè il nostro programma Due di Denari e anche questa puntata del 26 maggio. Che cosa succede? Che è confermato il 16 giugno come scadenza dell'IMU, però attenzione, perché il comune potrebbe aver disposto qualche misura di favore per i suoi contribuenti. Come si fa a saperlo? E non c'è altro modo se non andare sul sito del comune e verificare, perché la scadenza non è stata toccata, è rimasta intatta nonostante i vari cambiamenti che sono intervenuti con i decreti legge da coronavirus. Questa qui invece, questa dell'IMU, è rimasta lì. Però il comune ha facoltà di intervenire, magari prevedere una scadenza più lunga, addirittura qualche comune dice: potete darci tutto al saldo di dicembre, perché la sostanza è non gravare adesso su chi non ha disponibilità economiche, magari perché non ha potuto lavorare in questi mesi. sul Sole 24 Ore tutto questo e molto di più in quattro pagine dedicate proprio all'acconto IMU. Questa era la prima notizia, so che contrasta un po' con Tiffany, Deborah, ma abbi pazienza. No, guarda, io invece stamattina in piena coerenza te ne racconto un'altra che riguarda ancora un po' il mondo che generalmente viene celebrato da Tiffany, perché gli anelli di fidanzamento che si possono comprare in quello store, in quel negozio, sono meravigliosi, e però sappiamo che questa crisi ha generato praticamente l'annullamento, quasi l'azzeramento totale di matrimoni e cerimonie nel nostro paese. Noi riceviamo ancora tante mail di tanti ascoltatori e tante ascoltatrici che lamentano soprattutto il fatto che magari soprattutto per le location della loro cerimonia avevano già versato degli anticipi e delle caparre e fanno fatica a farsele restituire appunto dai gestori di questi locali. Noi lo comprendiamo naturalmente, quantomeno questi ristoratori, gestori di location, appunto, quindi di luoghi dove fare le cerimonie, chiedono quantomeno se rinviate la cerimonia. Noi ci tratteniamo questi anticipi, chiaramente poi ne parleremo quando la cerimonia potrà essere fatta o meno. Ma c'è un'indagine che è stata resa nota questa mattina dal portale prontopro.it. È un portale per domande e offerta di tutta una serie di servizi professionali molto gettonato da tantissime persone. Stima che la richiesta di servizi matrimoniali è calata a causa della crisi nella misura del 78% da gennaio ad aprile e di quasi il 40% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Onestamente io pensavo anche peggio, ed è chiaramente quello che si è registrato un impatto importante in termini negativi su un comparto che nel 2019, secondo Assoeventi, che è l'associazione di Confindustria per i settori eventi, luxury e wedding, quindi lusso e matrimoni, ha generato 10 miliardi di fatturato, e quindi voi pensate quanto danno a questo comparto economico è derivato a causa del coronavirus. Qualcosa però, dice Pronto, però potrebbe ricominciare a muoversi in settembre in vista dello slittamento di molte celebrazioni al 2021. La spesa media per l'organizzazione di un matrimonio in Italia si aggira intorno ai 25.000 euro, e attraverso lo studio dei preventivi stilati negli ultimi 12 mesi dai professionisti del settore, Pronto Pro ha potuto definire un prezzo standard di 14.000 euro e un prezzo premium che supera di poco i 36.000 euro. Ma non è più il tempo di matrimoni eccessivamente sfarzosi, anche perché, come sai, possono essere, per chi vorrà farlo magari lo stesso in questo mese di giugno, luglio, dovranno essere molto meno numerosi, molto meno affollati, dovremo andare tutti in mascherina, quindi magari questo scoraggerà un po' anche le cerimonie particolarmente numerose, sfavillanti, ecco, ricche, sfavillanti, sì. Direi di sì, sfavillanti anche per continuità con Tiffany di cui abbiamo parlato prima. Invece io, guarda, ho una notizia sul reddito di emergenza, perciò qui non parliamo affatto di condizioni di lusso e condizioni di benessere o di sfarzo, perché riprendiamo un messaggio dell'INPS, lo segnaliamo perché questo importo del reddito di emergenza è un reddito che è stato previsto dal decreto ultimo, il decreto rilancio, il 34, e va alle famiglie che non hanno avuto nessun'altra indennità da Covid e non hanno componenti con un reddito da lavoro o un reddito da pensione. Allora, questo importo potrà arrivare in questo caso a 840 euro mensili per due mesi, se il nucleo è composto da due adulti, due minorenni, e un componente con una situazione di disabilità. Altrimenti il limite massimo sarà, per quattro persone in famiglia, 800 euro. È una circolare dell'INPS che ha ricordato queste e altre caratteristiche di questa misura. Questo reddito di emergenza si potrà chiedere se il reddito familiare in aprile non ha superato il limite previsto per il sussidio. Beneficio economico di 400 euro se parliamo invece di una famiglia con un unico componente. È una misura, ricordiamo, straordinaria. Il termine per presentare la domanda è al 30 di giugno. Tutte le istruzioni sul sito dell'INPS e naturalmente inps.it. Attenzione a non cadere in situazioni truffaldine di altri messaggi. Solo questo è il sito. INPS, quindi Imola, Napoli. Chisa Salerno è la sigla corretta. Lo dico perché spesso con queste misure, sai, Debora, sì, perché con queste misure, sai, Debora, arrivano magari sms o cose truffaldine che cercano, così, sono in realtà dei serpenti corallo che cercano di turlupinare la gente e avere anche il loro magari poco da parte, perché se uno è destinatario del reddito di emergenza sicuramente non si tratta di una persona benestante. Sai che abbiamo anche un bellissimo dillo a due di denari. Ottimo. Dillo a due di denari. Allora, noi ad oggi non abbiamo ancora ricevuto la seconda tranche dei 600 euro che doveva essere automatica e che nella prima tranche siamo stati fra i fortunati ad averla abbastanza presto. A questo punto mi devo preoccupare? Che cosa devo fare, dal momento che era automatica a chi era stata data nella prima tranche? Aiutatemi per favore, grazie. Eh sì, molte persone sono state escluse dall'automatismo, no Mauro? Forse ne abbiamo parlato proprio ieri, invitando le persone che ritengono di avere i requisiti per ottenere l'indennità a riformulare eventualmente la domanda se non hanno ottenuto in automatico il bonus, mi ricordo male? Sì, sostanzialmente è possibile ripresentare se uno si è vista respinta la domanda, deve verificare la sua situazione sempre sul sito INPS. Qui invece il caso che dell'ascoltatrice dice: io ho avuto i primi 600 euro ma non mi stanno arrivando i secondi, che pure dovevano essere automatici, cioè non richiedere un'ulteriore domanda. Allora, questa è una situazione che effettivamente l'INPS non ha ancora, per così dire, sciolto, non ha ancora indicato. Dovrebbe essere, io ripeto, uso il condizionale, ma ci è stato assicurato dal ministro in persona, quindi non una persona qualsiasi, che questa attribuzione sarebbe stata automatica. Chi ha già ricevuto i primi riceverà anche il resto dei sussidi. Però attenzione, perché alcune condizioni sono mutate. Ieri abbiamo segnalato una ricca pagina del Sole 24 Ore che raccoglieva tutte le varie misure per i professionisti, professionisti con cassa, gli artigiani e commercianti e i cambiamenti che sono intervenuti tra marzo-aprile e il mese di maggio con il nuovo decreto. Ciò premesso è promesso, Mauro, che anche ci occuperemo pure di questi casi, io lancerei la nostra sigla del giovedì. Va bene. Investire informati. Beh, noi immaginiamo che come la signora che ci ha mandato il messaggio ci sia una ampia fetta di popolazione che in questo momento sia abbastanza indifferente alle dinamiche dei mercati finanziari, perché chiaramente sono alle prese proprio con una ricerca di serenità per quello che riguarda il posto di lavoro. C'è però al contempo anche una fetta di persone che in realtà alle dinamiche dei mercati finanziari guarda con interesse, e anche noi ci guardiamo con interesse, caro Mauro, perché se dovessimo trarre delle conclusioni sull'andamento dell'economia cercandole dall'andamento delle borse, sembrerebbe di avere a che fare con una fase economica molto spumeggiante. Pare che invece non è così. Vada tutto bene. Se uno guardasse solo i mercati, dovrebbe dedurre che è un momento meraviglioso. Esatto, proprio hanno ormai un po' lasciato alle spalle tutta la crisi del Covid, si sono rimesse in pista e in questi giorni più volte abbiamo letto di questo rally di borsa che è in corso da molte settimane, e tutte erano soprattutto in attesa di un importante appuntamento che è proprio previsto per oggi. La Banca Centrale Europea, tornata a riunirsi, dovrebbe lanciare un nuovo pacchetto, incrementare un pacchetto di stimoli che è già in corso ad implementarlo di almeno, così quisquiglie, 500 miliardi di euro. Chissà se ne sanno di più i nostri ospiti di stamattina. Allora, diamo il benvenuto, il bentornato, anzi, a Manuel Pozzi, direttore investimenti di M&G Investment. Buongiorno Pozzi, buongiorno. Buongiorno a tutti voi, buongiorno. Allora, come si può spiegare a noi comuni mortali questo strabismo dei mercati? Nel senso che, appunto, siamo tutti preoccupati, ci sono anche intere fasce di popolazione che si sono ritrovate o con riduzioni del reddito o addirittura senza lavoro, non solo in Italia ma un po' in tutto il mondo, però i mercati sono fiduciosi perché vedo che hanno sempre segni abbastanza di ripresa, segni abbastanza positivi. C'è un motivo? Vedono più oltre? Stanno anticipando qualcosa? Hanno trovato il vaccino e noi non lo sappiamo, non ce lo dicono. Magari. Allora, i mercati finanziari, per quanto possono essere globalizzati, tecnologici, sofisticati, sono sempre dei mercati.